e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. E invece eccoci qui, io ieri vi ho salutato pensando già al weekend, forse anzi pensando già al Natale, invece a Natale ci penso, sono ancora ben salda qui con voi, me ne scuso, ieri evidentemente non ero presente a me stessa con il cervello quando vi ho salutati. Comunque ben ritrovati a Cuore e Denari, una puntata speciale, naturalmente avvicinandosi le feste abbiamo voluto anche noi organizzare una trasmissione dedicata a chi vive una situazione di difficoltà. Vogliamo oggi parlare degli altri, quelli a cui magari durante il resto dell'anno si presta poca attenzione. Oggi non c'è Nicoletta con noi, naturalmente con l'avvicinarsi delle feste ci organizzeremo un po' con la nostra presenza qui davanti a questo microfono, e comunque lo spirito del Natale, soprattutto negli ultimi anni, ha alimentato l'anima solidale che è in ognuno di noi, ci ha fatto riflettere un po' di più e spesso ci ha portato a fare un ragionamento su come si può vivere il Natale degli altri, anche aprendo le porte di casa nostra o donando qualcosa di noi, come per esempio il nostro tempo. E quindi iniziamo subito chiedendo a voi ascoltatori, che già da questa domanda siete stati stuzzicati su Facebook, ma potete anche chiamarci all'800 24 00 24, dedicate un pensiero o un gesto agli altri, a chi è più in difficoltà in prossimità del Natale. Siete diventati proprio in questo periodo magari volontari di qualche associazione, parleremo di tutto questo ma anche di tanto altro, e ora partiamo. Natura, nutrizione scientifica vi presenta Essere e Benessere. Anche vicino al Natale, nonostante tutti gli impegni, è voluto essere con noi il dottor Attilio Speciani, che saluto, buongiorno. Ma buongiorno a tutti. Gli siamo grati perché il dottor Speciani ci accompagna in tante puntate di Cuore e Denari, per cui anche con l'avvicinarsi del Natale ha voluto essere qui con noi, e con lui faremo anche un ragionamento sul Natale, magari di chi ha troppo, di chi abusa del cibo durante tutto l'anno e poi ne paga le conseguenze. E magari le voglio chiedere subito un commento, dottore. Natale di austerità ormai da anni, lo stiamo definendo in questa maniera. Il 30% della popolazione vicino alla soglia di povertà, mentre dall'altra parte lei si occupa tutti i giorni dei problemi legati ad una alimentazione scorretta. Dal suo punto di vista, dal punto di vista del lavoro appunto che fa, che riflessione ci porta a questi microfoni? C'è chi ha troppo e chi ha troppo poco? La parola che mi viene in mente è quella della sperequazione, cioè della diversità. Dal 1999 la World Watch Organization, che studia proprio le situazioni mondiali economiche, ha definito proprio in quell'anno il momento in cui fondamentalmente le persone che stavano mangiando in eccesso nel mondo stavano superando quelle che stavano invece avendo dei problemi di fame. Allora questo significa che c'è uno squilibrio complessivo. In realtà poi avremo modo di parlare, di dire come alcuni spunti ci sono però per migliorare questa situazione, però è vero che siamo in una condizione in cui c'è chi sta mangiando tantissimo e chi sta mangiando poco, niente, cioè non ha realmente il possibile. Questa è una situazione che si riflette anche oggi nel nostro lavoro. Io vedo tra i miei pazienti la maggior parte delle persone arrivano con delle patologie da benessere, e poi ci sono in realtà persone che, e questo è strano da dirsi, ma anche in una situazione di patologia da benessere come quelle che viviamo oggi, hanno magari carenze nutrizionali specifiche. Cioè bisogna reimparare a mangiare, ridare al cibo il valore, io lo dico, dell'energia, che è quella del sole che entra dentro di noi, e quindi possiamo muoverci in questa direzione con una riflessione che porti verso una migliore, il sole per tutti, e quindi dobbiamo trovare una distribuzione per cui l'energia possa essere di tutti. Quindi lanciamo anche magari questo invito ai nostri ascoltatori, facciamo in modo che questo Natale diventi anche una riflessione su questo argomento, così facciamo una riflessione su come ci relazioniamo con il cibo, anche pensando a chi magari durante la giornata non riesce a mettere insieme il pranzo con la cena. Se una persona ha più del dovuto, dottor Speciani, peraltro appunto donare diventa ancora più importante, e donare, lei ce l'è venuto a raccontare, fa bene anche alla nostra salute. Perché? Ma non fa bene, fa benissimo alla salute. È una cosa fantastica, ci sono degli studi estremamente interessanti. Io vorrei così provare qualche spunto. Ad esempio il fatto che io credo che la cosa più determinante sia che uno effettivamente quando dona qualcosa è come se avesse un anelito positivo, si sentisse meglio. Mm-hmm. Ecco, questa cosa è stata studiata scientificamente, ci sono studi fatti sia a livello economico, ad esempio dalla Harvard Business School, che ha definito fino al 2008 che cambia la modalità con cui uno si rappresenta, ma anche studi medici estremamente rilevanti, ancora proprio di quest'ultimo decennio, per arrivare a riconoscere che nel momento in cui uno dona qualcosa, in realtà si attivano delle aree del cervello che sono, diciamolo, sono quelle che si connettono col piacere. Vedremo tra poco, perché c'è anche una relazione con l'ossitocina. Quindi in più sappiamo, ci sono studi che ci hanno detto che possiamo avere ad esempio una riduzione della pressione alta, quindi ci sono proprio degli aspetti addirittura di tipo patologico, per cui la gente viaggia con le sue pillole, le sue cose. Donare, dare qualcosa agli altri consente di abbassare questa specie di contrattura interna che porta spesso alla pressione alta. Anche qui abbiamo studi scientifici che lo documentano. Ma io credo che due degli elementi, prima di toccare quello dell'ossitocina che riguarda qualche tema sessuale, che è sempre un po' intrigante. Se è Natale, d'altronde, se bisogna parlarne. Perché esiste un concetto di reciprocità, ovvero è documentato a livello di relazionalità, cioè degli studi che studiano come il gesto di una persona possa determinare delle interazioni con la gestualità del sociale. Poi siamo abituati ai social, oggi sappiamo che a volte basta un like da qualche parte su Facebook per determinare e scatenare reazioni potenti. Ecco, la stessa cosa avviene quando uno dona, perché si rappresentano degli esempi, delle identificazioni di elementi positivi, e questo genera nell'altra persona, addirittura c'è uno studio che dice, per almeno tre passaggi relazionali, cioè non solo la persona che ti ha visto fare, ma la persona dopo, quindi ne abbiamo altri, e quindi qui adesso siamo in redazione. Sì, ci stavamo movimentando un po', perché in realtà ci ha anticipato un tema che affronteremo dopo, quindi la ringrazio per questo. È un tema forte, tra l'altro con delle documentazioni specifiche di studi che hanno documentato quanto questa cosa esiste. E l'ultima, io l'esprimo questo dicendo che dare è contagioso, certo. Questo viene bene, quindi parlando di salute e di malattia è una delle questo. Poche malattie contagiose che Buone. Ci fa piacere appunto come dire, essere trasmettere. E una è quella che è documentata, ad esempio, che si innalza il valore dell'ossitocina. L'ossitocina quando si innalza? Si innalza ad esempio durante la lattazione, si innalza alla fine del parto, si innalza durante l'attività sessuale. È definito un po' l'ormone del piacere da un certo punto di vista, e quando uno dice doni, in realtà non dico che è meglio di, però tutto sommato ci sono degli elementi di estrema positività, delle percezioni, delle sensazioni che sono quelle che fanno muovere il mondo in alcune situazioni, vuol dire che l'interazione con la salute è forte. Certo, allora stimoliamo anche su questo tema i nostri ascoltatori, a prescindere dal periodo che si sta avvicinando, che è quello natalizio, e che in qualche modo più o meno, anche se forzatamente, fa diventare tutti più buoni, ma donare anche nel corso dell'anno vi ha trasmesso questo benessere fisico nella modalità con cui ci ha spiegato il dottor Speciani? Vi capita anche appunto di sentire questo benessere quando siete più buoni nei confronti degli altri? 800 24 00 24 è il numero verde che, come tutti i giorni, vi dà l'opportunità di interagire con noi, naturalmente in diretta, oppure se volete scriveteci al 349 238 6666. Dottor Speciani, le voglio far commentare quello che invece ci scrive Francesco, che dice: a me il Natale piace così tanto e mi mette così tanta felicità che spero che domani possa essere già il 7 gennaio. Magari insomma qualcuno effettivamente tutte queste abbuffate non le vive proprio volentieri, no? Non è che siano un obbligo. Posso dire che c'è proprio questo aspetto legato, lo vedo in molte persone. Il Natale è anche la riattivazione di elementi legati alle relazioni familiari. Sappiamo, anche la cronaca ci racconta, di come talvolta queste non siano sempre improntate ad una relazione facile, serena, tranquilla. Quindi per molti in realtà è come il riproporsi di un obbligo che uno vorrebbe tranquillamente evitare. Questo tipo di comunicazione, mi dispiace per l'ascoltatore ovviamente che dice questo, però lo ritrovo in molti pazienti che vivono questo periodo come un periodo in cui devono riaffrontare dei temi che non hanno mai risolto, perché poi tutti questi disagi vanno a finire nell'intestino, che è il nostro secondo cervello, e lei se ne deve prendere cura, dottor Speciani, appunto. Allora, che cosa facciamo? Direi di sentire Giacomo da Ferrara e poi andremo anche ad un'altra parte del nostro programma che vi raccontiamo volentieri, ma prima subito le testimonianze, i racconti, le esperienze dei nostri ascoltatori all'800 24 00 24. Inaugura la serie delle telefonate Giacomo da Ferrara, che saluto. Buone feste e buon Natale, Giacomo. Ciao. Buongiorno. Ciao Deborah, buongiorno. Ciao. Buone feste anche a te. Niente, noi siamo qua come volontari, sono io insieme a Chiara ed Enzo per un'associazione che si chiama Ibo Italia di Ferrara, e impacchettiamo i regali di un negozio di giocattoli, insomma, senza fare nomi, un negozio importante, per raccogliere fondi per i progetti in Italia e nel mondo di questa associazione, progetti educativi a favore di bambini, bravo, donne e ragazzi. Quindi cerchiamo di fare i pacchetti più belli possibile, però soprattutto è la finalità che ci muove. No, grazie Giacomo per averci raccontato quello che fa insieme a Chiara e Enzo, i suoi amici, perché qualche volta quando uno così si interessa un po' al tema del volontariato, posso fare qualcosa degli altri, non c'è bisogno di andare dall'altra parte del mondo per poter fare qualcosa per un'altra persona. Giacomo con i suoi amici si è messo a disposizione di un centro commerciale, immagino, in pacchetta regali in questo periodo, quindi non c'è bisogno di fare chissà che cosa, dottor Speciani, un po' come quando si mangia, non c'è bisogno per stare a stecchetto e tenere sotto controllo l'alimentazione e fare chissà quali sacrifici, insomma basta un pochino essere educati. Esatto, equilibrio e educazione sono elementi importanti. Senti che relazione che ho fatto stamattina. Fantastica, siamo passati dal secondo cervello all'impacchettamento. Esatto. Posso fare una telefonata? Come facciamo se fossi un ascoltatore? No, poi posso dire ai nostri ascoltatori che su Facebook hanno un'immagine inedita del dottor Speciani, per cui fra un po' andate a curiosare e vedrete con che veste si è presentato stamattina a Cuore Denari. E ho parcheggiato le renne qui sotto, fuori. Certamente. E sono arrivato. Faccia la sua finta telefonata allora. La mia telefonata è proprio parlando di un'esperta di economia. Cioè, a volte si dice c'è il sommerso, per cui l'evasione fiscale, questi sì, qui tolgono il PIL. La gente che lavora gratuitamente costruisce un valore, esatto, per l'Italia. Un pochino compensa un'altra PIL. È un PIL nascosto, non so come dire, che non viene riconosciuto e non viene conteggiato. La ringrazio la mia per aver fatto questa osservazione che raccogliamo perché è molto pertinente. Allora, adesso ritorno ancora a invitare i nostri ascoltatori a chiamarci all'800 24 00 24 per raccontarci un gesto di generosità che avete fatto o un gesto di generosità che avete anche inaspettatamente ricevuto. Un ascoltatore ci scrive su Facebook: io ho portato cibo e coperte al canile e mi sono emozionato. E sì, anche un pensiero agli animali in questo periodo lo vogliamo rivolgere volentieri. E adesso sentiamo un po' quale parentesi apriamo. Posto a tavola perché, come dicono loro, il pane spezzato è più buono della ragosta. Oggi avremmo potuto parlare di tante iniziative di solidarietà presenti sul territorio italiano in questo periodo, ma anche durante l'anno ne abbiamo scelte alcune che ci permettono comunque di dare l'idea della grande sensibilità del nostro paese, nonostante tutto, nonostante anche quello che ci racconta un ascoltatore che dice: donare non sempre mi dà piacere, specialmente quando dono le innumerevoli tasse allo Stato, e attualmente accade troppo spesso. Comunque andiamo alla nostra prima iniziativa di solidarietà, il pane spezzato con chi non ne ha è più buono della ragosta, e con questa provocazione la Caritas Ambrosiana ha lanciato per le feste natalizie questa nuova iniziativa di condivisione. Buongiorno a Luciano Gualzetti, vice direttore di Caritas Ambrosiana. Buongiorno. Buongiorno dottor Gualzetti. Allora, ci spiega esattamente in che cosa consiste questa iniziativa, date l'opportunità alle famiglie italiane di Milano di aprire le loro case a chi è in una condizione di bisogno, se non ho capito male. Sì, è molto semplice, è un'iniziativa che da anni noi, ma anche altri, propongono. Cioè, noi incontriamo tutto l'anno persone in difficoltà, famiglie disoccupate piuttosto che persone senza dimora, che poi vengono accompagnate attraverso iniziative anche di frontiera, diciamo così, con i rifugi notturni piuttosto che le mense, eccetera. In occasione di Natale spesso appunto la gente ci chiede cosa possiamo fare a Natale, possiamo venire a fare il volontariato, eccetera. Una delle proposte che noi facciamo, e quest'anno l'abbiamo fatto sotto questo titolo anche un po' provocatorio, no? Del pane spezzato più buono della ragosta, noi possiamo proporre a queste famiglie di aprire le loro tavole, le loro case, per ospitare anche nei cenoni piuttosto che i pranzi canonici di Natale persone che hanno queste storie. In realtà appunto è più buono, non forse anche come gusto, ma sicuramente più buono nel senso di bontà, e di solidarietà, perché condividere, dividere il proprio pasto, anche semplice, è sicuramente un gesto che va nella direzione della solidarietà e dell'accoglienza, che comunque fa bene non tanto alle feste, perché bisogna essere più buoni, ma fa bene alla persona che vive un gesto di responsabilità. È un po' il tema che stiamo esplorando in questa mattinata, in questa puntata speciale di Cuore Denari. Peraltro, da quello che ho capito, dottor Gualsetti, sono graditi inviti a tavola, oltre che a Natale, Capodanno e l'Epifania, anche per tutti i giorni di questo intero periodo di festa, no? Volendo. Sì, noi lo lanciamo proprio in questo momento di festa, perché c'è questa grande solidarietà e disponibilità, anche questa richiesta di persone che vogliono fare qualcosa. In realtà, voglio dire, se qualcuno fosse disponibile anche durante l'anno non c'è problema, noi abbiamo sicuramente tutte le possibilità, certo, e tutte le persone che hanno bisogno di un aiuto. Ovviamente accanto a questo poi noi garantiamo che la persona sia accompagnata con dei progetti, perché noi speriamo e lavoriamo perché la gente non abbia bisogno di pacchi viveri, della mensa, eccetera. Quindi insomma, non è questa in sostanza, ecco, un'iniziativa fine a se stessa, è un modo per richiamare l'attenzione su un tema più generale, che è quello della situazione di difficoltà che vivono molte famiglie in questa ricca Milano. Dottor Gualsetti, qui qual è la situazione? Perché noi ovviamente abbiamo invitato voi, ma se andiamo a vedere un po' tutta l'attività che la Caritas svolge su tutto il territorio nazionale, purtroppo dovremmo parlare per 12 trasmissioni qua, ma qua a Milano, una città per antonomasia appunto della ricchezza, della prosperità, del benessere, la situazione qual è? La crisi ha colpito duro, ha colpito con maggiore intensità i poveri che erano già poveri, e sta colpendo persone che mai si sarebbero sognati di rivolgersi alla Caritas, che hanno esaurito le proprie risorse, i propri risparmi, anche le reti di solidarietà, familiari, vicini, eccetera, e adesso si trovano veramente in difficoltà, perché il vero problema è risolutivo, e la soluzione del problema sarebbe stata ritrovare un lavoro adeguato. Quindi, non ritrovandolo, si trovano in serie difficoltà, non riescono più a curarsi, non riescono più a pagare l'affitto, non riescono più a pagare il mutuo, e quindi queste situazioni ci costringono, noi della Caritas, a mettere in campo tutta una serie di aiuti, quelli di frontiera, le mense, i pacchi viveri, eccetera, ma anche forme di aiuti un po' più sofisticate, non so, come il Fondo Famiglia Lavoro, che va a riattivare le persone nella ricerca del lavoro, nella formazione, perché diciamo a tutte queste persone: non state fermi, sfruttate questo tempo che c'è, che è drammatico, perché la disoccupazione comunque porta a depressione, eccetera, ma sfruttatelo per riattivarvi, e noi siamo insieme a voi per trovare delle piste per riqualificarsi, eccetera, perché la soluzione sarà, se arriverà, appunto, nuovi lavori, nuove opportunità. Infatti. E tra l'altro, dottor Gualsetti, ne approfitto di lei solo per un ultimo, poi ci deve lasciare, andremo avanti con la trasmissione, per lanciare magari un ultimo messaggio. Quelle di cui parla lei sono le condizioni di difficoltà che vengono allo scoperto, no? Ma facciamo anche attenzione a chi ci sta vicino, perché molto spesso ce ne sono altre che non vengono allo scoperto, perché chiaramente chi vive una condizione soprattutto di disagio economico, lo sperimenta per la prima volta nella sua vita, non lo racconta agli altri. Non lo racconta, sono invisibili, hanno vergogna. Il fatto che noi siamo riusciti a mettere in campo, ad attivare tutte queste forme di attenzione e di solidarietà concreta, parrocchia per parrocchia, almeno offre la possibilità che la gente, che chi ha questi problemi, possa essere ascoltato, non venga lasciato solo, perché la cosa più drammatica in questa crisi è la solitudine, gente che si ripiega su se stessa, che appunto vergognandosi non chiede una mano a nessuno, e facendo così invece peggiora la propria situazione. Invece abbiamo riscoperto tanti legami di solidarietà, vicinanza, e questo del pane spezzato può essere uno, perché uno poi va, conosce un'altra famiglia, possono scattare amicizie, relazioni, esatto, che sono le cose più importanti. Benissimo, grazie a Luciano Gualsetti, vice direttore di Caritas Ambrosiana. Ricordo che c'è ancora tempo, chiaramente il messaggio è rivolto alle famiglie di Milano: per dare la propria disponibilità potete chiamare al numero 02 76 037 1, da lunedì a venerdì in orari di ufficio. Grazie ancora, dottor Gualsetti. Dottor Speciani, invece, a lei le faccio ascoltare cosa fa Adele da Genova, che è un medico, quindi una sua collega. Adele, buongiorno. Buongiorno. Ci racconti un po'. Io collaboro da circa 2 anni con un'associazione che ha sede nella stazione di Cornigliano, la stazione ferroviaria, L'associazione si chiama Sole e Luna, è iniziata prima con una mensa per la distribuzione a persone bisognosi e poi dopo hanno deciso di aprire un ambulatorio medico e vado insieme ad altri colleghi, siamo due internisti, ci sono due dentisti. Mm. Lo fa tutto l'anno? Altre persone, certo, ecco. Adele, è un impegno che la coinvolge tutto l'anno o come dire si intensifica in questo periodo? In questo periodo si intensifica oppure potete prendervi un pochino una pausa? In questo periodo è regolare, diciamo, ci prendiamo la pausa dall'ambulatorio ma continua l'attività della mensa. Mm-hmm. Adele, grazie per quello che fa e grazie per averci raccontato il suo esempio. Buona giornata. A lei, arrivederci. Invece il dottor Speciani è andato ad Haiti a sperimentare le sue attività, come dire, così di sostegno a popolazioni in grande difficoltà. Magari sa che cosa fa, ce lo racconta dopo che abbiamo raccontato quello che succede in borsa, perché comunque anche di soldi, anche in questa giornata dobbiamo parlare. A tra poco. Cuore e denari. Oggi ho una ricetta facile facile che fa bene a tutti. Allora, prendete gli spaghetti, il pomodoro, i legumi, tonno, tutto rigorosamente in scatola. L'olio, abbondate con le dosi e mettete tutto in questo cestino. Partecipa anche tu alla giornata nazionale della colletta alimentare. Vai nei supermercati aderenti all'iniziativa e fai la spesa anche per chi ne ha bisogno. È una ricetta consigliata da Alessandro Borghese. E torniamo insieme, questo era lo spot per la giornata della colletta alimentare dell'anno scorso, ma il messaggio naturalmente è sempre valido, il cibo, la cucina e i cuochi sono proprio di moda di questi tempi, non solo perché pensiamo al pranzo di Natale, ma perché la televisione ha trovato un filone di grande successo. Allora in studio con me per parlare di tutto questo e del Natale degli altri, il dottor Attilio Speciani. Abbiamo con noi anche il presidente del Banco Alimentare, Andrea Giussani, che saluto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buone feste buongiorno. Anche a lei e tra poco avremo anche una sorpresa. Però eravamo rimasti in sospeso con queste azioni di interesse nei confronti degli altri, del dottor Speciani, non per parlare insomma di quello che fa, perché è anche come dire, una scelta privata molto certo. Spesso, che anche questo non sempre gli altri mettono a disposizione dell'intera comunità. Comunque lei si interessa a quello che è successo ad Haiti qualche tempo fa, un popolo devastato appunto dal terremoto. Che cosa ha fatto, dottore? Ma credo che l'elemento cardinale, al di là di quello che ognuno poi può fare nelle proprie possibilità e potenzialità, è l'elemento fondante che ha citato anche prima quando ha chiamato questo medico Adele da Genova. Mm-hmm. Cioè ha segnalato un dato potente, un'iniziativa che è nata con poco, con degli elementi minimali, in realtà si è espansa improvvisamente. Primo, perché c'è un bisogno intorno, cioè la gente ha bisogno e a volte non viene riconosciuto. Secondo, perché quando c'è una passione che viene espressa, questa si dilata. Io sono stato ad Haiti con la Fondazione Rava per due volte per ora e l'elemento, la prima volta era poco dopo il terremoto, quindi con situazioni realmente devastanti anche dal punto di vista di salute, di igiene gestionale. Eppure la cosa fondamentale rimane, e credo che sia una dimensione importante nell'aiuto, è quella dell'ascolto dei bisogni veri e della reale dimensione di popolo che riceve un aiuto. Io ho tutta una serie di conoscenze, sono stato chiamato lì ad intervenire perché ho delle conoscenze nutrizionali, perché so fare delle cose. La necessità è di riuscire a calarle dentro la realtà vera di quelle persone, quindi ascoltando quali sono le modalità in cui le persone possono ricevere qualcosa. Io ricordo con molto piacere, ed è un doppio elemento, il fatto che abbia iniziato ad occuparmi di un bisogno che è la carenza di proteine in quella popolazione. Allora, nel 1700 Haiti è stato il primo popolo che ha creato il peanut butter, il burro di arachidi. Loro avevano le arachidi, quindi l'hanno preparato, sistemato e iniziato a farlo. E oggi è perso. Riuscire a dire che si potesse aumentare il livello di proteine da dare ai bambini delle scuole, ai bambini di strada, che sono in una condizione, io credevo di conoscere la povertà, quando sono arrivato ad Haiti ho detto okay, va bene. Evidentemente è qualcosa di diverso, riuscire a portare a tutti i bambini delle fonti proteiche. Allora, riuscendo a far fare a loro stessi certo. il burro d'arachidi, che è un pride, un orgoglio del popolo di Haiti, e contemporaneamente di poterlo distribuire come fonte proteica che diventa integrativa, perché più o meno poi tutti un po' di pasta da qualche parte arriva, un po' di pane lo trovi, no? Con gli aiuti che arrivano, però poi le fonti proteiche sono tecnicamente più costose, più problematiche, e in realtà bisogna darle, altrimenti creiamo un popolo poi di obesi malati come quelli che certo. discutevamo all'inizio. Ed è stata un'esperienza fantastica, devo dire, rimane... Poi in realtà come diceva prima, non ti fermi qua, perché torni in Italia e ti accorgi che parte del tuo lavoro è quello di dedicare del tempo anche all'organizzazione delle cose che poi qualcun altro magari svolge sul campo là, e però tu doni il tempo, le tue conoscenze per che questa cosa diventi reale. Hai in mente di tornare presto? Lascio la cosa al bisogno, è faticoso, devo dire. Certo, perché non si può andare là per 3 giorni, no, faticoso, ci si impegna, bisogna star là per lunghi periodi, e quindi chiaramente lei anche alla sua attività deve organizzarsi di qua. Allora, parlavamo di Haiti, le immagini che ci arrivano dalle zone più sfortunate del mondo, che ci fanno riflettere, anche se a volte non pensiamo che la povertà ormai è anche a casa nostra, il cibo è un dono e tutta la filiera deve essere attenta a non sprecare, dal produttore alle catene di ristorazione o alle mense, fino al consumatore. Di questo aspetto parleremo tra un attimo con il presidente del Banco Alimentare, Andrea Giussani, ma prima, siccome è un po' chiaramente impegnato e noi lo abbiamo proprio distratto anche da chiaramente il suo lavoro odierno, che non è qui in Italia peraltro, ma in un'altra capitale europea, lo abbiamo sentito prima, lo salutiamo subito, torna con noi in questo Natale, noi ne siamo molto contenti, Alessandro Borghese. Ciao, buongiorno, Alessandro. Buongiorno a tutti. Eccolo qua, sempre spumeggiante, scoppiettante, cuore eclettico ed innovativo, che l'anno scorso è stato proprio il testimonial della colletta alimentare. Però Alessandro, poi grazie, ci racconti. Grazie a te per aver accettato. Si spreca troppo sulle nostre tavole, forse è anche un po' colpa vostra con tutti questi programmi televisivi che ci invitano appunto a mangiare, a cucinare e appunto a fare tutto questo. Naturalmente sto scherzando, so che voi in realtà siete molto sensibili su questo argomento dello spreco. Beh sì, diciamo che il ruolo del cuoco sì deve essere quello dal punto di vista televisivo, ma anche di divertire, di insegnare, ma anche di dare un'educazione alimentare, una corretta maniera di fare la spesa e di non sprecare, quindi di riciclare e comunque di fare una spesa oculata nel momento in cui tante volte si comprano più cose di quelle che veramente necessitano. Quindi questo bisogna fare molta molta attenzione. È il ruolo di noi cuochi dare un'educazione di questo genere. Io ci tengo tantissimo a poter, anche durante il lavoro mio quotidiano, quando parlo con clienti, durante un evento, un banchetto, una cena, sensibilizzare e usare dei prodotti che possono essere prodotti di riciclo o comunque prodotti che non hanno eccessivi eccessivi momenti nutrizionali troppo pesanti. Quindi, come diceva prima, la parte proteica è sicuramente importantissima. Mm-hmm. E dobbiamo fare attenzione e dobbiamo cercare di alimentarci in maniera corretta. Certo, Alessandro, sappiamo che sei alle prese con il tuo nuovo progetto televisivo che è partito da un paio di giorni. Ci parli in questo momento in diretta da Barcellona, perché non l'abbiamo raccontato ai nostri ascoltatori, e il tuo nuovo programma ti porta in giro per tutta l'Europa. Che aria di Natale stai respirando negli altri paesi? Ma guarda, devo dire che il fermento gastronomico non è unicamente italiano. Io adesso sono in Spagna, che è una grande nazione dal punto di vista gastronomico, molto importante la cucina spagnola e molto vicino alla nostra. Quindi anche qui c'è una sensibilità dal punto di vista di cucina. Il mio programma mi porta in giro per le capitali del mondo per andare a sfidare e portare la cucina italiana e i cuochi italiani in giro per il mondo. Quindi a sfidare un cuoco noto negli altri paesi. Sono stato a Istanbul recentemente a conoscere la cultura turca, che è molto vicino alla nostra, pure quella mediterranea, per poter portare dei prodotti italiani, come ho fatto in Turchia, mozzarella, colatura di d'alici, pane carrasao, e a loro volta i loro cuochi mi danno dei prodotti locali che io devo rielaborare. C'è una sfida finale per cercare di capire chi è il più bravo. Incredibile. Però c'è anche la parte documentaristica, certo, insomma, di conoscere il paese e le culture gastronomiche di quel paese. Allora, visto che a questo punto ci hai anche stuzzicato e hai incrementato la saliva della bocca di tutti questi che siamo qua, raccontaci un po', magari se vuoi, una ricettina che hai a disposizione. So che sei nel bel mezzo di una giornata di lavoro, però questa non puoi non offrirci. Beh, anche qualche idea. Cucina, due o tre trucchi culinari per questo Natale 2013, per ridurre gli sprechi, preparando però al contempo anche qualcosa di sfizioso. Ma io quest'anno sono molto verso la materia prima, il pollo. Perché io sono un amante del pollo e comunque negli anni ho notato anche nei colleghi nella ristorazione generale che nelle carte dei ristoranti il pollo viene a mancare spesso e volentieri. Ci sono tante carni altisonanti, invece il pollo è un prodotto non costoso, molto buono, che se rielaborato in una certa maniera può essere un grande vantaggio anche sulla tavola dal punto di vista proprio di spreco di soldi, insomma, da quel punto di vista là. Quindi io sto facendo un sacco di menù a base di pollo e mi sto divertendo parecchio. E allora, lanciamo... in questo caso io sto lavorando una coscia e sovraccoscia di pollo che viene panata in una farina di ceci e poi viene saltato in padella e condito con, in un periodo natalizio, con delle clementine sfavellate che danno un po' di acidità e del rosmarino. Semplice. Hai anche la benedizione del nostro nutrizionista Alessandro. Assolutamente, molto molto semplice. Benissimo. Molto sano pure, non è fritto, è solo unicamente cotto in padella rovente. Però l'importante è partire dalla materia prima, cioè noi cuochi alla fine facciamo il 10%, il 90% lo fa la materia prima. No, tra l'altro hai fatto bene quindi... anche a, ecco, a sollevare la questione della materia prima, perché noi abbiamo tanti produttori, sì, quindi senza andare a cercare appunto alimenti che arrivano da tutte le parti del mondo, accorciamo ste filiere, che è un grande tema. Ecco. Le filiere sono importantissime, il mio progetto di paginafood.it, che è un portale proprio di cucina che... tipica italiana, noi dobbiamo spingere l'italianità in questo momento di crisi, come si dice, bisogna essere coesi e uniti ed essere molto molto italiani, quindi lavorare prodotti italiani e dar lavoro a tutta la filiera gastronomica. Infatti la parte gastronomica nostra di cuochi è quella che ha dato anche molto molto visibilità a chi magari non ha la possibilità di investire tanti, piccoli produttori, coltivatori, pescatori sono da esaltare in questo momento, dobbiamo essere veramente veramente molto italiani in cucina. Alessandro, grazie molte per questo messaggio finale, naturalmente buon lavoro, ma soprattutto buon Natale e buone feste anche a te. Ma grazie a voi, grazie a tutti gli ci ospiti. Risentiamo sicuramente il prossimo Natale, perché ormai Alessandro Borghese è diventato nostro ospite fisso e ci fa molto piacere. La sua benedizione a questo piatto, dottor Speciani, ce la deve dare. Petto, assolutamente, carne c'è bianca, perfetta integrazione, farina, non di ceci, ci sono fritti, ci sono dei carboidrati di alto valore biologico come i ceci, in più ci sono le clementine che danno questo acidulo e quindi aggiungono anche l'elemento frutta fondamentalmente. Mi viene in mente in un periodo in cui stavo studiando ed ero in rotta un po' con la famiglia, avevo pochissimi soldi, dovevo gestirmi da solo, coscia e sopracoscia era quello che io facevo come mio piatto ricco, cioè era la cosa più meno costosa del mondo, e però me la preparavo esattamente come lui, aggiungevo del limone, me la lasciavo andare lievemente, buonissima. Ricordo quei momenti come momento importante, quando lui ha detto coscia e sopracoscia mi è venuto in mente episodi ormai di quasi 40 anni fa, che sono benissimo, positivi e belli. Molto bene, allora Giussani, non mi sono dimenticata di lei. Eccomi ritorniamo qua con lei tra poco. Guardi, le chiedo, già che ha fatto 30, facciamo 31, le chiedo di ascoltare con noi i suggerimenti per Chi è in viaggio, poi andiamo all'attività del Banco Alimentare. Peraltro c'è Camilla da Crema, io anticipo la telefonata della nostra ascoltatrice che vi aiuta per tutto l'anno e ci racconterà come. A tra poco. Cuore e denari. Quasi Natale, a Bologna che freddo che fa. Io parto da Milano per passarlo con... Eh sì, è quasi Natale, naturalmente anche noi abbiamo voluto dedicare a questa ricorrenza una puntata speciale di Cuore e Denari, perché vogliamo interessarci oggi delle iniziative di solidarietà, soprattutto fare in modo che tutte le parole che escono da questa trasmissione non siano parole che cadono nel vuoto, ma dare anche dei suggerimenti utili a chi viene stuzzicato da, come dire, dal tema della solidarietà, vuole fare qualcosa degli altri perché magari ha ricevuto. E allora che cosa può fare? C'è Antonietta che ci scrive: sono in ascolto dalla vostra trasmissione e voglio sapere come posso mettermi in contatto con la signora Adele, il medico di Genova che ci ha chiamato prima, che per tutto l'anno chiaramente presta la sua attività appunto in aiuto di questa struttura per curare anche le persone che non possono permettersi molto spesso banalmente anche così di curarsi. Sappiamo che è un incredibile, dottor Speciani, nel 2013 ci sono persone che oltre al medico di base non possono andare. Assolutamente sì, e ricordo quando in una struttura di Charity di Milano io in un momento mio particolare di sviluppo, mm-hmm, come si diceva, chiesi al responsabile dicendo: mi piacerebbe venire a fare qualcosa, sono i primi passi, dicendo a scodellare minestra per le mense. E lui mi ha detto: Allora, il buon Dio ti ha dato delle capacità. Noi abbiamo bisogno di gente che curi. Dimenticati, io vorrei fare qualcosa di diverso da quello che faccio di solito. Non ti preoccupare, se il buon Dio ti ha dato la conoscenza, certo, vieni, lavora, fai il medico. Il tuo talento, mettila a disposizione. C'è un'altra mia amica che lo scorso anno invece voleva, si era, come dire, attivata in questo periodo, andare a dare la sua disponibilità per le mense, appunto, di Milano, per le persone, appunto, più bisognose. Ma in realtà l'hanno, non dico cacciata, però hanno detto: no, grazie, non puoi svegliarti a Natale, devi fare un corso con noi e darci una disponibilità fissa. E quindi, ecco, anche insomma, fare queste cose non è semplice, no, no. Soprattutto le strutture dovete dare la vostra disponibilità in maniera costante e coerente, altrimenti non ha senso. È vero, Giussani, presidente del Banco Alimentare, Andrea Giussani? Sì, sicuramente dal punto di vista dell'aiuto del volontario, io capisco l'empito di generosità, il desiderio di aiutare, di intervenire che abbiamo tutti noi in fondo e che vorremmo applicare domani mattina, soprattutto quando veniamo richiamati. Ma ahimè, o per fortuna io dico, anche la solidarietà, il no profit, le associazioni, oggigiorno, soprattutto nelle grandi città, devono assumere dei contorni di vera e propria organizzazione a impresa e quindi devono garantirsi una qualità e una quantità. Io dico, dall'esperienza del Banco Alimentare e della sua rete in Italia, dico anche per due buoni motivi. Il primo è per un rispetto della persona che abbiamo davanti. Non è che facciamo un servizio di serie A quando abbiamo, che so io, un cliente che paga o uno che viene al ristorante, e un servizio di serie B alla mensa delle persone indigenti. Altrimenti questo vuol dire che non sono davvero, non li consideriamo persone fino in fondo. Quindi c'è un aspetto di dignità, di rispetto, di valore della persona. C'è anche un aspetto di professionalità. Noi riteniamo, e l'esperienza che io faccio da volontario, dopo aver lavorato in azienda tutta la vita, adesso essendo in pensione dedico il mio tempo in questo modo, è anche il desiderio di utilizzare la propria professionalità per fini che non sono immediatamente remunerativi, ma che fanno bene alla società, alle persone che hai davanti, e sono sussidiarie a tutto quello a cui lo Stato non può arrivare o le amministrazioni. Infatti, tema a voi molto caro e del quale parleremo tra un istante. C'è una vostra testimonial giovanissima al nostro microfono, presidente Giussani, e le faccio sentire che cosa ci racconta Camilla da Crema. Camilla, buongiorno. Ciao. Ciao Camilla. Ciao. Io partecipo alla colletta alimentare alla fine di novembre e poi durante l'anno, una volta al mese, ci troviamo a preparare i pacchi, vengono detti, che sono degli spatoloni con dentro il cibo, e poi li portiamo a casa delle famiglie. Infatti. E Camilla, ci sono molte situazioni di difficoltà, di disagio economico attorno a te? Sì, sì. Noi portiamo, io e mio marito lo facciamo insieme, portiamo questo pacco a due famiglie ogni mese, e poi ci sono vari volontari, noi siamo circa una trentina, e ognuno ha bene o male due o tre famiglie. Che cosa ti lascia ogni mese questa visita, queste famiglie che sono in difficoltà? Sento che sei anche molto toccata, appunto, anche nella modalità con cui ce lo stai raccontando, Camilla. Ma in realtà ovviamente ogni volta che esci da quella casa ti porti un po' il loro peso, perché comunque sono delle situazioni veramente disagiate. E soprattutto quando hanno anche di mezzo dei bambini piccoli. E la cosa che stiamo facendo noi, che poi dopo ti viene anche spontanea, andando sempre ogni mese dalla stessa famiglia, è aiutarli poi anche nel resto. Certo. Quindi per esempio adesso stiamo aiutando anche uno a cercare lavoro, certo, nel rifargli il curriculum, aiutarlo a... Quindi fermarsi, parlare... Dove mandarlo. Parlare anche un attimo con queste persone e non fare in modo che, come dire, l'aiuto si esaurisca solo nella consegna del pacco con degli alimenti dentro, no Camilla? Poi chiaramente quando ci si affeziona si va anche oltre. Grazie per la tua testimonianza, io do del tuo a Camilla perché è molto giovane, non ce l'ha detto, 26 anni, quindi. Presidente Giussani. Beh, avete molti Camilla, giovani. Mi aiuta a dire in pochissime parole esattamente il ruolo diverso del Banco Alimentare e della sua rete rispetto a ciò che fa Camilla, ma rispetto alla possibilità che Camilla continui a farlo, certo, come migliaia di persone in Italia, perché Camilla non ha la preoccupazione a questo punto di dover comprare gli alimenti o di andare a cercare, quindi impegnando risorse di tempo ed economiche sull'aspetto alimenti, perché certamente io immagino la sua associazione, il suo gruppo di volontari riceve dal Banco Alimentare della Lombardia delle quantità di alimenti che permettono di poter poi innescare questo lavoro di presenza, di partecipazione, di vicinanza alle famiglie. La nostra filosofia è proprio questa, cioè noi stiamo dietro, sosteniamo durante l'anno continuativamente, ogni settimana, ogni giorno, circa 9.000 associazioni e strutture caritative come la Caritas di cui prima abbiamo sentito, o come molte parrocchie, molte piccole associazioni, che in questo modo ricevono continuativamente alimenti perfettamente commestibili, alimenti pronti da essere consegnati, qualche volta anche cibo fresco, e vengono poi da loro utilizzati, portati, e creano la possibilità di un rapporto sul territorio. In questo modo loro fanno veramente una presenza e una testimonianza capillare. Noi non potremmo mai, noi stiamo dietro e portiamo loro risorse alimentari. Lei pensi che in un anno noi raccogliamo, per dire i dati dell'ultimo anno, circa 62.000 tonnellate di alimenti che sarebbero destinati allo spreco e vengono invece utilizzate dalle persone come Camilla, che le portano in direttamente forma di pacco, oltre a quelle della colletta. Aspetti un attimo, Presidente Giustani, c'è una domanda del dottor Quanti Speciale. Camion sono, per farlo capire alla gente che ascolta. Che cosa si mette in moto specialmente nella giornata della colletta alimentare del 30 novembre, Giustani? Allora, distinguiamo i due fatti. Uno sono le 62.000 tonnellate che raccogliamo giorno per giorno e le altre sono le circa 9.000 che abbiamo raccolto, che ci sono state donate dai centri commerciali, dai supermercati, dai consumatori, ovvio, facendo la spesa. Quindi qui veramente in questa seconda iniziativa si sperimenta il concetto di dono, cioè la possibilità di donare, di partecipare donando. D'altro canto io sentivo anche quando si parlava prima di Haiti, eccetera, ho sempre questa idea fissa in testa, che l'alimento è ciò che dimostra di più al mondo e alla vita che è possibile donare, perché se ci pensate l'alimento nasce dal dono della natura, della terra, poi viene riprodotto, manipolato, elaborato dal lavoro dell'uomo, quindi un altro modo di donare, poi viene cucinato o dai grandi cuochi, Alessandro Borghese, o dalla mamma o dalla nonna, e viene quindi ridonato un impegno di affetto. Ed infine noi diciamo c'è un'ultima possibilità per tutti, è il dono, non a Natale ma durante tutto l'anno, di recuperare lo spreco che sarebbe accaduto buttandolo via. Allora abbiamo, diventare un bene. Presidente Giussani, lo dico anche al dottor Speciani, abbiamo un'altra mezz'ora di tempo per commentare tutto questo e parlare di tutto questo, però siccome attende da tanto volevo sentire la testimonianza per concludere questo blocco di Benito da Modena, che ha un ristorante. Che cosa fa quest'anno, Benito? Salve, buongiorno. Abbiamo un minuto? Niente. Sì. Abbiamo un'iniziativa, ho preso per chi ha delle difficoltà, abbiamo dato l'incarico a due parrocchie di selezionare delle famiglie con un certo bisogno e offriamo il giorno di Santo Stefano un pranzo al mio ristorante. Quante persone sarà in grado di ospitare, Benito, così chi non si fosse accorto di questa sua idea? Abbiamo circa dato spazio a 100 persone, l'unica cosa che abbiamo rilevato è che molta gente, come devo dire, ha vergogna di queste situazioni e vorrebbe partecipare, ma non vuole farsi vedere dagli altri. Sì, ed è anche comprensibile. Benito, però complimenti a lei per questa sua idea. Buon Natale a lei, alla sua famiglia, a tutti i suoi dipendenti nel ristorante. Noi ci fermiamo per il giornale radio, ma torniamo tra poco con Attilio Speciani, con Andrea Giussani, e quindi solo il tempo di ascoltare il giornale radio. Cuore e denari. È molto di più quello che riceviamo di quello che diamo, ci scrive Luisella, ha colto perfettamente lo spirito del nostro programma di questa mattina. Noi oggi stiamo pensando all'altro Natale, ci state raccontando i gesti di generosità che avete fatto, che avete ricevuto per Natale, ma non solo. Cogliamo anche l'occasione per fare un po' un bilancio di tutto l'anno. Questa crisi che è imperversa ci ha inaridito un po' tutti, ci ha incattivito un po' tutti, ancora nel nostro cuore c'è un po' di spazio per pensare agli altri. È chiaro, nessuno di noi può fare miracoli, ma sicuramente sicuramente può dedicare un pensiero anche magari a quel vicino di casa che sa che è in difficoltà, magari non ne ha mai parlato apertamente con lui. Questo Natale potrebbe essere anche l'occasione giusta per farlo. E allora continuate a chiamarci all'800 24 00 24 con noi questa mattina per parlare di tutto questo. Il dottor Attilio Speciani, una persona affezionatissima al nostro programma, specialista in allergologia e immunologia clinica a Milano. Ancora buongiorno dottore. Oh, buongiorno di nuovo. E ancora buongiorno ad Andrea Giussani, presidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus. Buongiorno, grazie mille, buongiorno. Adesso riprendiamo la chiacchierata anche con i nostri ascoltatori. Salva Danaio. Forse Trevor ha assolutamente ragione, perché dovremmo pensare al mondo? Insomma, dopo tutto, cos'è che il mondo si aspetta da noi? Senti, apprezzo quello che fai, contraccambiare Trevor. Non mi è permesso contraccambiare Trevor. E allora cos'è che stai facendo? Passo il favore. Questo sono io. Questo sono io. E queste sono tre persone a cui darò il mio aiuto. Ma deve essere una cosa molto importante. Una cosa che non possono fare da sole. Perciò io la faccio per loro. E loro la fanno per altre tre persone. Questo è un film bellissimo, si chiama Passa il favore, ieri ce l'ha segnalato la nostra Laura Vanossi, perché io non lo conoscevo. Un po' sintetizza, dottor Speciani, quello che lei diceva prima: basta fare un gesto ad un'altra persona che magari si stimola a sua volta a farne altri, e quindi, come dire, tutto il processo si amplifica a dismisura. È esattamente questo, c'è proprio un'attivazione di aree, non sono più aree difensive del nostro cervello, sono aree proiettate sul futuro, quindi è fondamentale questa cosa perché dà spazio. Abbiamo visto che essere generosi fa bene, lei prima ci ha spiegato anche quelli che sono i benefici del fisico, i benefici appunto che il fisico registra quando si compie appunto un gesto che fa stare bene noi ma anche la persona che naturalmente lo riceve. Ma oltre alla solidarietà, dottor Speciani, mangiare in compagnia, e qua andiamo alle note dolenti dei prossimi giorni, ci fa mangiare in modo un po' diverso. Come, cosa succede allo stomaco quando siamo insieme agli altri? Ma c'è un articolo che ho ripreso perché vi ho detto ci vediamo oggi, parliamone, da Eurosalus. È un articolo che avevo titolato ai tempi "Chi va col cicciottone impara a cicciottare", che è ovviamente... Però non succede il contrario, chi va col magrolone? Beh, in parte sì, questo è l'elemento abbastanza importante, cioè si è visto, questo è uno studio fatto dal New England Journal of Medicine e pubblicato recentemente, in cui si coglie che le persone che tendono ad ingrassare sono quelle che hanno nel loro entourage, intorno a loro, amici, parenti, eccetera, che pure tendono ad ingrassare. Allora, questo significa che l'induzione psichica da parte di chi ti ha a fianco e che sta mangiando in maniera stratosferica porta ad uno sfacelo dal punto di vista alimentare. Cioè se c'è non una responsabilità, direi, ma una consapevolezza sul piano alimentare, ce la caviamo bene. Certo che sedersi a tavola con un gruppo di amici che ti dicono ma cosa, dai, no, per una volta hai già bevuto solo tre bicchieri di vino, il quarto cosa vuoi che sia, ma no, e questo è pesante, no? diventa effettivamente un po' difficile, e lo stomaco a quel punto trova delle difficoltà a metabolizzare tutto. Quindi l'idea non è quella di eliminare gli amici paffuti, assolutamente, ma di sentirsi però in maniera positiva e di mettere in moto una serie di meccanismi anche come suggerimenti. Ad esempio, una delle cose che io dico in fase prenatalizia è quella di andare ad utilizzare delle piccole, i semi oleosi, mandorle, nocciole, eccetera, prima dei brindisi. Ma quanta gente passa, incontra le persone, fa bevi qualcosa, brindiamo. Allora, l'alcol che entra nella pancia, nello stomaco vuoto, è devastante. Se c'è un blocco, un rallentamento dell'assorbimento, e ad esempio delle mandorle sono utilissime, qualche nocciolina insieme magari un morso di qualcosa di crudo, un po' di verdura, ecco che anche quel bicchiere di vino, che palesemente è inutile che stiamo a raccontarci non bevete, non fate Natale, perché la gente lo fa, certo. Allora è inutile, cerchiamo di toglierci di torno anche dei sensi di colpa inutili, facciamolo in modo furbo, questa è la mia idea, non di non farlo, facciamolo in modo furbo, perché i modi furbi ci sono e possiamo gestirli. Presidente Giussani, ha sentito? Mi raccomando, una confezione di noci in tasca prima del brindisi che farà prossimamente con i suoi collaboratori. Farò il possibile. Adesso sentiamo qualche altro ascoltatore all'800240024. In tanti ci state scrivendo. Io volevo segnalare quello che ci scrive al 349-238-6666. Non so se sia un ascoltatore o un'ascoltatrice, che ci dice che ha fatto un corso presso una fondazione, perché appunto, ribadisco, per fare anche volontariato non ci si può improvvisare, bisogna avere tempra, coraggio, oltre che tempo. Ho fatto un corso presso una fondazione da 6 anni, sono volontaria, ecco, un'ascoltatrice, in un reparto oncologico del nostro ospedale, non so da dove ci scriva, 3 ore la settimana, che io immagino che per assistere le persone che vivono in un reparto come questo tipo, 3 ore siano già moltissime. E un altro ascoltatore ci chiede: un agronomo come può aiutare con la sua professionalità? Noi non lo sappiamo, però magari lanciamo così questo messaggio, se ci fosse qualche necessità da qualche parte del nostro paese di una professionalità appunto di questo tipo. Antonio da Brescia, quanto l'ho fatto aspettare? Antonio, sì, mi vuole ancora bene? Sì, no, assolutamente. Siamo anche sotto Natale, quindi vi faccio anche grazie, tanti auguri. Grazie molto, Antonio, anche a lei. Lei come si, come dire, mette a disposizione degli altri? Ma io ho avuto un'esperienza che ho iniziato a gennaio, e diciamo della serie non è mai troppo tardi. Mm-hmm. Mi sono iscritto ad un corso di primo soccorso nella mia città. Ho fatto, come giustamente diceva prima, da gennaio un corso di 140 ore. E sono entrato subito in associazione come volontario. Uh-huh. E adesso mi sono certificato anche come soccorritore. Quindi posso, presto anche il mio servizio, sia a livello di volontariato per i trasferimenti di sede, come vengono così chiamati, e anche in ambulanza sul 118. Benissimo, Antonio, però mi è piaciuto un po' quello che è stato il preambolo alla sua telefonata. Non è mai troppo tardi, Giussani, giusto? Certo, è stato così per me, lo può essere per migliaia di persone. D'altro canto, il fatto di scoprire che per esempio nella nostra rete abbiamo 1700 volontari che danno il loro tempo continuativamente, oltre ai 135.000 del giorno della colletta, questo dice che la possibilità c'è. Bisogna scoprire un amico che ti inviti, bisogna trovare la buona motivazione, ma la possibilità c'è. Allora, andiamo adesso a sentire anche Rosanna da Como. Sì. Buongiorno. Buongiorno, buon Natale Rosanna. Grazie. Allora, rispetto diciamo all'intervento precedente, mm-hmm. io non riesco a donare, nel senso di fare qualcosa per gli altri, tipo volontariato, mm-hmm. pronto soccorso, eccetera. Però mi piace molto, ad esempio, cercare sempre durante l'anno gli oggetti, le cose che possono far piacere agli altri, e mi sento felice in questo. Al contrario, però, non mi sento felice quando qualcuno mi dona qualcosa, perché mi mette a disagio, perché mi sembra di non meritarmelo e di non essere capace di esprimere praticamente il mio cuore. Un adeguato... No, stavo... riconoscenza, certo. Eccetera, sì. Rosanna, beh, guardi che comunque ci saranno sicuramente attorno a lei tante persone che le vorranno fare un dono, anche un po' per superare questa piccola barriera che lei mette nei confronti degli altri, perché si sente addirittura non degna di ricevere dei regali, ma ci mancherebbe altro che non lo è, se non altro per quello che ci ha raccontato, se non altro per il fatto che lei invece li fa appunto con molto piacere. Grazie Rosanna, buon Natale, dottor Speciani. A proposito di regali, in questi giorni, io lo dico perché è successo anche a me, una marea di panettoni. Che facciamo questo Natale? Quanta è una quantità giusta che dobbiamo mangiarne per non far scoppiare il nostro fegato? Il panettone può essere riutilizzato. Intanto ormai i panettoni, anche quelli buoni, fatti, possono resistere per un po'. Allora, anziché gestirci dicendo devo per forza finire i panettoni nel giro dei prossimi... Entro l'epifania, L'epifania, riuscire a riportare il panettone ad essere... cos'è che manca al panettone per essere un cibo anche sano e positivo? Qualche noce sopra sicuramente. Un po' di noci. Sì, assolutamente, qualche proteina aggiunta, per cui una prima colazione in cui purtroppo non ho ancora visto fuori i panettoni integrali, per cui una delle cose ma pesanti. Lanciamo questa sfida allora all'industria del settore, esatto, a tutti i vari nomi altisonanti del comparto. Però ecco che una prima colazione in cui aggiungiamo fibra, mettiamo dentro un po' di proteine, eccetera, possiamo non buttar via niente, finire i panettoni in modo positivo e quindi goderci anche di questo gusto, trascinando lo spirito del Natale nei mesi successivi. L'altro grande piatto che terrà a banco in questi giorni, soprattutto a Capodanno, dottor Speciani, è la lenticchia appunto con lo zampone. Lei questo qua come ce lo giudica? Lo direi fantastico, nel senso che intanto oggi anche gli zamponi sono fatti in maniera da non essere proprio da trasudare grasso da tutti i pori, come dire. La lenticchia è un ottimo contenuto di bilanciamento tra carboidrati e proteine, tra l'altro risponde, ad esempio ho visto che proprio non so, ieri ero a Belluno e i bellunesi usano lo zampone con le lenticchie come elemento del giorno di Natale, no? Per cui ci sono queste varietà di tipo tradizionale. Devo dire che di per sé è un piatto positivo in cui abbiamo dei grassi presenti obiettivamente nello zampone, però delle buone proteine, e abbiamo degli elementi vegetali come carboidrati, che sono dei carboidrati sicuramente buoni, quelli delle leguminose, che possono gestire il nostro desiderio di riempirci un po' nella tradizione di tutti, certo, i paesi, tutti i popoli. C'è una sorta di digiuno diciamo prenatalizio, il tempo dell'avvento per chi lo vede sul piano religioso, comunque una carenza di cibi per chi deve pensare alla cultura agricola di 100-200 anni fa, certo, e quindi era un momento in cui uno aveva voglia di riempirsi di qualcosa di estremamente sostanzioso. Quindi un po' in tutte le tradizioni questa logica del digiuno che arriva fino alla sera della vigilia, la messa o momenti di comunità e di confronto con gli altri, poi a quel punto però ci facciamo di qualcosa che abbia, esatto, che abbia delle radici, dopo, no? Come dire, mangiato di magro, come si dice, no? Esatto. Ci si può riempire un po'. Poi daremo qualche suggerimento invece all'ascoltatore che ci scrive: ma io voglio dimagrire, come devo fare? Beh, bisogna intanto forse cercare di fare questo ragionamento all'inizio dell'anno, non in questo periodo, perché non è neanche giusto cominciare i sacrifici. Però una riflessione natalizia su questo per chi volesse, dottor Speciani, perché no? La riflessione natalizia, anche proprio l'abbiamo scritto come articolo ieri, ha già avuto un mucchio di like legati proprio al fatto che alcune piccole scelte, ad esempio il mantenere una prima colazione anche il giorno di Natale nei giorni precedenti, la prima colazione ben fatta, bilanciata, non solo a base di panettone come si diceva prima, quindi consente di non avere una fame eccessiva nel corso della giornata. Arrivare quindi a situazioni in cui abbiamo detto prima, lo ribadisco ancora una volta, il brindisi di per sé a stomaco vuoto induce una fame potente successiva, per cui uno cerca di riempirsi. L'utilizzare ad esempio qualche mandorla, qualche noce, un pezzettino di un morso di finocchio, qualcosa che abbia una valenza proteica e grassa contemporaneamente, oltre che di verdura, consente di rallentare l'assorbimento e impedisce di avere poi una fame incredibile. Camminare. Diciamo che se riusciamo, anziché sedersi a tavola e stare lì per 8 ore di fila o per 12 ore di fila, ecco, riusciamo a integrare, a fare quattro passi, a muoverci, ad andare a fare una chiacchierata con i bambini dicendo dai via che andiamo fuori a fare un giro, vediamo se c'è la neve, piuttosto che quello che possa essere, ed ecco che già questo comunque rimette in moto dei meccanismi positivi che suggerisco a tutti. Benissimo, sono tutte tra l'altro indicazioni di buonsenso, non sono delle cose così straordinarie che il dottor Speciani ci chiede di fare in queste prossime giornate, per cui tutti possiamo cimentarci in giornate di benessere, anche se, come dire, la buffata è dietro l'angolo. Allora 800 24 00 24, per continuare a chiacchierare con noi. Abbiamo ancora pochi minuti prima di concludere con Andrea Giussani. Sentirei Giuseppe dalla provincia di Latina. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno signora, complimenti per la trasmissione. Grazie a lei, Giuseppe. A lei mi rivolgo. Ha un nome impegnativo peraltro lei, perché nei prossimi giorni insomma i signori Giuseppe avranno da fare. sì, senz'altro. Ma quello che sto cercando di fare è di portare all'attenzione un mio sogno, che è quello di aiutare gli altri, poi in effetti, sì, di organizzare un programma dove con dei gruppi di lavoro si potrebbero organizzare dei lavori per gli altri, cioè i campi incolti per esempio qui nel centro Italia ce ne sono tantissimi. Ebbene, con l'aiuto di coloro che ci governano, facendo aspetta, delle cose, spera. Diciamo così, una legge appropriata, potrebbe organizzare questi gruppi di lavoro che potrebbero in pratica trarre subito beneficio. Cioè, Giuseppe, però qua il progetto è un po' impegnativo. Io direi che, come dire, se uno ha voglia può cominciare subito facendo qualcos'altro, magari andando alla parrocchia lì dietro casa, andando alla Caritas, ecco, prima di aspettare che magari il governo ci confezioni una legge per andare a coltivare i campi incolti. Per carità, obiettivo nobile, io non volevo assolutamente essere poco rispettosa nei confronti dell'idea di Giuseppe. Giuseppe. Direi che per partire si può cominciare con qualcosa che c'è più vicino. Giussani, chiudiamo con lei, perché sì, so che lei è... gli auguri a chi? A Giuseppe. Gli auguri di buon Natale a tutti, ma con un impegno, con una richiesta, se volete, che è questa. Volentieri. Adesso noi leggeremo sotto Natale e vedremo trasmissioni tutte scagliate contro questa civiltà dello spreco, i consumi, Natale si mangia troppo, si butta via tutto, eccetera. Benissimo, tutto in parte vero, però mi ricorda tantissimo quando da piccoli ci dicevano, non so se oggi si usa più, finisci il tuo piatto, finisci di mangiare, che ci sono i bambini che muoiono in Africa. Sì. E io mi chiedevo sempre, ma che io lo finisca o no, tanto il bambino in Africa morirà lo stesso. Mm-hmm. Allora, questo... Oggi la pensa ancora così? Questa indignazione io la vedo come forse uno scaricarci un po' la coscienza e forse come un tentativo di, come dire, di parlare dello spreco e di parlare del possibile recupero invece degli alimenti. Allora dico, usiamo questo Natale pensando, certo, di non buttare, di non sprecare, di fare la spesa giusta, ma per esempio di utilizzare tutto ciò che in famiglia potrebbe avanzare, abbondante, abbiamo fatto festa con gli amici, non li abbiamo tenuti a stecchetto, invitando qualcuno dei vicini, facendo quello che ci propone la Caritas, riutilizzando quello che abbiamo per qualche fine sociale. Ci sono moltissimi associazioni, esatto, conventi, case, ricoveri che ritirano e accolgono volentieri alimenti certamente non scaduti, ancora assolutamente mangiabili, per darle a chi non li ha. Sì, grazie Giussani, sicuramente con lei torneremo a fare una chiacchierata anche più avanti. Intanto l'ultima telefonata di Carla D'Alecco è per Attilio Speciani, che faccio sentire. Carla, che cosa ha scoperto? Carla, ma deve essere telegrafica, grazie. Sì, sono telegraficissima. Sì. Allora, io abito in provincia di Lecco, ma vicino a Bergamo, sì, la provincia di Bergamo. Ad Almenno, vicino a Pontida, c'è una pasticceria dove spesso noi andiamo, che si chiama La Pasqualina, che da quest'anno fa il panettone integrale. Mi è arrivato un messaggio Bene. Sulla mia posta. Grazie Carla. Allora noi col dottor Speciani siamo pronti già in spedizione ad andare in questo paese ad assaggiare questo panettone. Comunque, grazie a tutti, grazie Presidente Giussani. Buon Natale. Grazie a voi. Grazie a Attilio Speciani, anche a lei. Grazie, buon Natale. E a tutti i suoi collaboratori del suo centro. Grazie a Marco Lombardo e Laura Vanossi, che oggi mi hanno aiutato a confezionare la puntata da sola. Grazie a tutti, buon weekend, questa volta davvero, non come ho detto ieri, che praticamente ero già andato in vacanza in anticipo. E a tutti buone feste, ci risentiamo nei prossimi giorni.